concedere la scia. Non sono io, ma il tempo stesso che è tiranno, quindi mi raccomando la brevità a tutti quanti. Quanto? 5-6 minuti. Bene. Quindi sarò necessariamente sintetico, limitandomi a dire quali sono i punti d'accordo e chiedendo, diciamo, alcuni chiarimenti su un punto, secondo me, è rimasto in ombra nella relazione del professor Pellegrino. Io sono perfettamente d'accordo con lui quando ha detto che Kant è aperto alla scienza contemporanea e ha parlato del suo costruttivismo. Io direi costruttivismo matematico. Ci sono due brani nell'Opus Postum in cui Kant pare mettere in discussione anche parlare di convenzionalità, la verità assoluta del postulato delle parallele, e parlare di una certa convenzionalità di esso postulato. Altro punto su cui sono d'accordo è quando metteva il professore Pellegrino in evidenza che Kant non ha mai messo in discussione l'esistenza di Dio. Basta vedere il convolutto primo, dove si trova continuamente la frase Dio è il mondo, un Dio, un mondo, un mondo, un Dio. È continuo, e questo poi è molto importante perché ci porta a vedere il rifiuto di Kant nell'Opus Postum della teoria fontenelliana della pluralità dei mondi. Mentre all'inizio, anche nella critica della cultura non prende posizione, mentre nella critica del giudizio la reputa un'opinione possibile, nell'Opus Postum nega decisamente valore a questa teoria fontenelliana che ebbe una grande importanza e peso nel 700 e anche nell'800. La ritroviamo per esempio nell'Ottocento in William Whewell, kantiano di Cambridge, reputato fondatore dell'aprilismo storico e reputato uno dei precursori di Popper. Il punto invece su cui vorrei chiedere un chiarimento riguarda il concetto di fisica, perché finora quando lei ha parlato di fisica come scienza si è riferito ai primi principi metafisici dell'86, anzi scritti nell'85, perché Kant ci dice in una lettera allo Schulz che il manoscritto era pronto ma che non l'ha potuto terminare perché aveva un male al polso della mano destra. Ebbene, in quest'opera fisica vuol dire cinematica, meccanica e dinamica. Ma nell'Opus Postum fisica non vuol più dire questo, perché Kant distingue tre concetti di fisica. Fisica generalis, che studia le proprietà generali della materia, fisica specialis, che studia le proprietà speciali di scienze particolari come la cinematica, la dinamica e la meccanica, poi c'è la fisica specialissima, che questa abbiamo lasciato un pochino, che studia i corpi organici, si occupa dei corpi organici, si occupa di scienze come, diciamo, oggi le chiameremmo biologia. Kant non poteva usare questo termine perché è posteriore. E parla molto dei corpi organici, Kant, nell'Opus Postum. Ci dà continuamente definizioni, ci dice che sono anche macchine, cerca di dare, a mio avviso, una maggiore oggettività rispetto a quanto aveva fatto nella critica del giudizio a questo concetto di corpo organico. Ma questo concetto di corpo organico già c'era in critica del giudizio, del resto in un paragrafo notissimo, quando Kant definisce il concetto di fine della natura, Zweck der Natur, ci dice che fine della natura è un corpo organizzato e che si organizza da sé. E a questo punto si comincia ad affrontare il concetto di fine della natura, che è molto più complicato, a mio avviso, rispetto a quanto l'ho visto presentato prima. Perché se io mi chiedo con Kant, può l'uomo essere considerato un fine della natura? La risposta di Kant è no. Nein, c'è proprio in due passi della critica del giudizio. E allora come la mettiamo? Se l'uomo, Kant dice no, non è un fine, uno scopo della natura. In un terzo passo invece aggiunge, dopo averci detto di no, aggiunge l'uomo può essere visto, può essere considerato come fine della natura solo in quanto essere morale. Però non bisogna dimenticare che qualche paragrafo prima, 80-82, aveva negato proprio il fatto che l'uomo possa essere il fine della natura, quando dice, quasi scherzando, si potrebbe col cavalier Linneo considerare l'uomo come mezzo. mezzo per moderare la crescita degli animali, cioè del regno animale, i quali possono danneggiare le piante, cioè il regno vegetale, per cui pare che il regno vegetale possa essere, lo dice così, il fine, lo scopo finale della natura. Questo per dire che dipende dal punto di vista in cui ci poniamo. Una cosa è certa, che Kant aveva a cuore, era un fervido sostenitore dell'equilibrio della natura. Kant era su quelle che oggi potremmo chiamare posizioni ecologiche di una certa attualità. Non bisogna dimenticare, e qui il discorso va storicizzato, che il concetto di organizzazione der Natur, organizzazione della natura, è un concetto importante e fondamentale nella filosofia tedesca del 7 e dell'Ottocento. Basta pensare alle idee di Herder, dove il problema dell'organizzazione, e anche a tutta la polemica Kant-Herder, alle recensioni di Kant negli anni 85, voglio dire, questo è un punto importante e fondamentale. E allora qui bisogna stare molto attenti, perché non abbiamo un concetto solo di scopo della natura, anche dal punto di vista testuale, ma ne abbiamo due. Uno è Naturzweck o Zweck der Natur. Alla domanda se esiste un Naturzweck o uno Secular Natur, Kant risponde no. Esiste possibile un Endzweck, cioè uno scopo finale della natura? Sì, l'uomo, ma in quanto lo si consideri non dal punto di vista scientifico, non dal punto di vista filosofico, non dal punto di vista teoretico, solo e soltanto ed esclusivamente dal punto di vista morale. Su questo non c'è il minimo dubbio. Qui io potrei prendere i testi e mostrarli in maniera chiara e precisa. Ecco, a mio avviso non bisogna confondere, quindi, e concludo, ci siamo, non bisogna confondere il concetto di Naturzweck e il concetto di Endzweck der Natur. Fare questa confusione, a mio avviso, significa, e lo dico con tutta franchezza, andare contro non solo allo spirito, ma anche alla lettera della filosofia kantiana. Grazie, professor Marcucci. Professore Inske, che interviene sempre sulla relazione del professor Pellegrino. Benissimo. Ma direi che vorrei dire soltanto due o tre parole a una cosa non molto importante, vuol dire a questa famosa controversia fra Kuno Fischer e Krause. Secondo me il punto decisivo di questa differenza è stato un altro. Fischer ha avuto una concezione specifica sul sviluppo del pensiero individuale. Gli inizi di questa concezione, si può trovare in questa famosa lezione Clavis Kantiana, qua via Immanuel Kant, Elementa Philosophia Critica in Veneret, di 1858. Fischer ha pensato che il pensiero individuale di un gran pensatore infine arriva in una, a una concezione definitiva, per così dire in un porto sicuro. E questo porto sicuro è stato in, da Kant la filosofia critica con le tre critiche. E gli altri pubblicazioni, la metafisica di costumi, eccetera, sono stati per Fischer soltanto Perga. L'opus postumum mostra che il pensiero individuale è sempre frammentario. Noi non possiamo trovare un porto sicuro. In un certo punto noi dobbiamo finire il nostro pensiero senza un fine definitivo. Questo è il punto cruciale per Fischer. Krause ha detto Kant non ha finito mai la sua filosofia. E Fischer ha pensato, questo non può essere vero. Questo è per me, secondo me, il punto della differenza. Grazie, professor Insk. Se ci sono altri che vogliono prendere la parola, che in caso contrario facciamo concludere il professor Pellegrino. Sì. Non ci sono altre richieste di parola? Beh, io ringrazio, va bene, allora, ringrazio molto per i due interventi molto interessanti, molto penetranti. Vorrei rispondere prima al professor Insk per quanto riguarda lo scontro tra Kuno Fischer e Krauss, che è stato fortissimo, e lo scontro caratteristiche che lei ha sottolineato, perché Kuno Fischer intendeva definitivo, ma lo immetteva nella sua visione dialettica di tipo hegeliano di tutta la storia della filosofia, compreso Kant. Ora, Krauss, secondo me, giustamente controbatteva che non si può ridurre ad un certo tipo di schema, in qualche modo ideologico, dialettico, alla storia della filosofia, e controbatteva proprio in nome di un'antologia che lui ha pubblicato dell'Opus Postum. Quindi io sono d'accordo che il problema è definitivo o non definitivo, ma chi ha una visione hegeliana della filosofia e della storia della filosofia ha una visione definitiva che chiude a un certo punto in una certa unità sistematica il filosofare. E invece io mi sento più vicino a Krause, e Krause ha giustamente tirato fuori l'Opus Postum. Sì, anche lei, appunto, quindi io sono assolutamente d'accordo con lei, certamente. Kant non è uno che nell'ultima sua opera giunge a un traguardo definitivo, ma Kant è convinto che noi non possiamo giungere al definitivo, perché appunto c'è per Kant una realtà che è legato sia a una teologia, tutto quello che noi stiamo dicendo, ma una teologia negativa, non positiva sull'essere in sé, sulla realtà in sé, addirittura del mondo. Io non posso conoscere la realtà in sé neppure di una mosca, tantomeno la realtà in sé di Dio, ecco. Io la realtà in sé l'ho come una realtà possibile e problematica, ecco, questo è quindi non definitivo. Io credo che lo scontro in definitiva è proprio su questa definitività o meno della filosofia, della storia della filosofia. Kant è uno il quale è così convinto dei grenze, degli schranke, possiamo chiamarle come vogliamo, dell'esperienza umana, che noi non siamo in grado di giungere a un definitivo dal punto di vista della conoscenza ontologica della realtà. Certo, vi sono alcune verità assolute che noi abbiamo, l'imperativo categorico è una verità che noi conosciamo con certezza, però si tratta sempre di una verità che non ci dà la chiave del mistero dell'essere, del mistero della realtà in sé, del mistero che è il mistero di Dio. In definitiva, lui, a differenza di Hegel e degli hegeliani, è un uomo immerso nel mistero del mondo e della vita, insomma. Quindi sono fondamentalmente d'accordo con questa interpretazione dello scontro tra Kuno Fischer e Krauss, che è stato a quel tempo uno scontro denso di valore. Per quanto riguarda il professor Marcucci, ecco, devo dire che il problema centrale del finalismo ultimo della natura e dello scopo della natura credo che giustamente sia collegato al problema del rapporto tra questa opera kantiana, l'ultimo, l'Opus Postum, e la critica del giudizio. Qui in Italia chi ha sottolineato molto bene il problema del rapporto tra la religione di Kant e la critica del giudizio è stato proprio Olivetti, l'ha sottolineato ripetutamente, io sono d'accordo con lui. E in Germania, se certamente forse l'avrà già letto, ma può andare a Lehmann, il Lehmann ha sottolineato a fondo il rapporto con la critica del giudizio. Ecco, io conto. Sì. Vabbè, Matteo dei dubbi, io sono convinto invece che hanno ragione sia Olivetti che Lehmann in questo raccordo, anche lei è d'accordo, allora su questo siamo d'accordo e questo è secondo me molto importante perché cioè, Kant è un pensatore sistematico, non è che abbandona le sue antecedenti posizioni ma le tira fino in fondo e non riesce a essere definitivo, anche io credo che abbiano ragione quelli che dicono che ormai era vecchio anche, insomma, lui anche la vecchia gli ha impedito di tirare delle conclusioni che potevano essere più chiare. Direi che se noi però entriamo in questo raccordo con la critica del giudizio, allora noi vediamo che anche nell'ultimo Kant la critica del giudizio pesa molto. Pesa molto perché anzitutto fa sì che Kant veda l'esigenza di sottomettere la natura a un ordine superiore. E l'ordine superiore è ordine morale. Lei l'ha sottolineato, è giustissimo, cioè il mondo fisico soltanto non subordinarsi all'ordine morale può avere il suo significato finale, quindi non è la natura fisica dell'uomo il fine supremo, ma è la natura morale dell'uomo che ci fa scoprire quello che è il fine obiettivo della natura, obiettivo nel senso trascendentale, ecco perché... C'è anche l'altro concetto di fine della natura a livello, lasciatemelo dire, scientifico, epistemologico, biologia, fisiologia, sì, biologia, d'accordo, eccetera, d'accordo. Che noi studiamo da Linneo e da Buffon, sì, non potete dimenticare. No, ma io non l'ho escluso affatto, anzi, quando io ho sottolineato, io quello lo metto più lungamente con la documentazione nel mio esposto completo, che lui si sforza di trovare l'unità della materia, quello che lui chiama etere, o Warmistoff. Ecco, quell'unità della materia per lui è un elemento unitario che raccoglie anche tutto il mondo organico, non soltanto il mondo quelle che lui chiama le forze moventi della natura, le forze fisiche della natura. Indubbiamente. Ah, beh, guarda, io però facciamo concludere perché se no, possiamo dilatarlo in un colloquio infinito. Io vorrei su questo punto dire che tutto è legato ancora al concetto della critica del giudizio, che si taccia di giudizio riflettente, non di giudizio costitutivo, ma è giudizio riflettente e quindi è indubbiamente un giudizio di tipo regolativo, non è un giudizio costitutivo dell'esperienza e quindi io non ho nessuna difficoltà a introdurre questi concetti che sono collegati soprattutto con la critica del giudizio che in definitiva riguardano un fine della natura che trascende la natura fisica e che noi però cogliamo attraverso l'uomo, attraverso la coscienza umana. Quella coscienza umana che è aperta sulla realtà ma è attraverso l'esperienza morale. Senza l'esperienza morale non sarebbe possibile neppure concepire il subordine della natura fisica all'ordine che è l'ordine superiore. La fisica esiste. Ah, sì. La natura e la natura esistono. Non me ne fa esistere. No, non è vero, io non dico che non esistono su quel piano ontologico che... è oggettivo, Ma oggettivo, dal punto di vista della critica trascendentale, non oggettivo come intendono quelli che credono nell'ontologia. L'ha detto lei stamattina, che per Kant non c'è un'intuizione intellettiva di tipo ontologico dell'essere e questo non c'è, ma la scienza che è una costruzione però, l'ha detto prima, che è costruzione del soggetto. Ora qui il problema è, secondo me c'è un contrasto che io ritengo radicale tra la visione ontologica che ha la filosofia, che ho chiamato cristiana, sono diverse tendenze, ma e l'ontologia greca, che ha influenzato tutto il Medioevo, con la posizione kantiana. Questo non significa che non esiste il mondo, saremmo in una posizione di solipsismo che non è quella di Kant, ma esiste entro una costruzione che è dell'a priori trascendentale, e questo è quindi una sintesi che viene dall'io o dalla percezione pura, continuamente lo ribadisce nell'ultimo Kant, che è una creazione della soggettività. Quella soggettività non è irreale, no, è una realtà però umana che crea l'ordine del mondo e l'ordine della natura. Grazie. Sì, scienza compresa, ovviamente, scienza compresa. Grazie al professor Pellegrini, grazie ai relatori che ci hanno concesso questa dotta giornata, grazie a voi per la pazienza. Domani alle 9 riprendono i nostri lavori.